Ma io penso che queste sanzioni che si stanno prendendo contro un vignettista come Vauro, fra l'altro uno dei più originali, dei più veramente interessanti secondo me del panorama italiano, è gravissima. Ci se la prende fra l'altro in particolare per una vignetta che nella sua drammaticità era ineccepibile, quella dei cimiteri, no? Questo cimitero dove appunto c'è questa battuta incriminata che lede la pietà verso, secondo loro lede la pietà verso i morti. Io credo che casomai quella vignetta dà fastidio ai vivi, cioè ai vivi che sono i responsabili di quello che è successo, come sempre più sta venendo fuori dalla casa dello studente a tanti altri edifici crollati per speculazioni sui materiali. Insomma, hanno colpito proprio, io credo, una sacrosanta denuncia, oltre che una vignetta di grande efficacia e nemmeno poi tanto fuori dal sentire comune, perché tutti pensiamo, io credo, che ci siano comunque delle responsabilità dietro quel che è successo all'Aquila.